Non lontano da quel gruppo, accanto alla tartaruga di pietra, Giada Lucente teneva stretta la mano a Ciccia. Quando i suoi occhi incontrarono quelli di Luna di Primavera, li abbassò rispettosamente e aspettò che la madre la notasse. Per un momento, Luna di Primavera scrutò la figlia, sorpresa che non l'avesse semplicemente chiamata da lontano e non le fosse corsa incontro, minacciando coi suoi piedoni i gigli dorati sul suo cammino. Dal loro arrivo 3 mesi prima non era quasi passato giorno senza che Giada Lucente procurasse qualche fastidio, sconfinando in cortili proibiti, rompendo, sbadata com'era, qualche cimelio di famiglia, dicendo ad alta voce la sua opinione quando si imponeva il silenzio. Luna di Primavera ne aveva dedotto che ciascun contrattempo era un vero e proprio gesto di sfida, fino a quel momento. Quella sera la bambina era vestita in modo impeccabile, ogni piega al suo posto, persino i capelli raccolti sopra la faccia radiosa. Quella sera, già da lucente, non turbava l'armonia. Quando la madre le fece cenno di avvicinarsi, lei esitò un attimo, poi lasciando andare la mano della serva, si affrettò a stringere quella di Luna di Primavera, come se corresse il rischio di volare via. «Ho un aspetto gradevole, madre?» chiese timidamente. I miei capelli sono in ordine esattamente come quelli delle altre? Proprio così, figlia mia, solo che tu sei più bella, molto più bella, pensò Luna di Primavera. Ma erano cose che non poteva dire, nessun'altra parola le venne in mente. Ho un aspetto gradevole, madre? Lei annuì solennemente. Insieme andarono a rendere omaggio a Neve Fragrante, che era appena arrivata e sembrava una raffinata orchidea fra i papaveri. Figlia mia, sussurrò, è forse accaduto un miracolo? La mia nipotina sembra quasi una persona civile. Luna di Primavera sorrise fra sé, ma prima che potesse rispondere, le tre donne, appartenenti a 3 generazioni diverse, furono circondate dalle più giovani che chiacchieravano e si scambiavano saluti, come se quasi tutte non si vedessero ogni giorno, come se le nuove facce non appartenessero a persone sconosciute, ma a sorelle lungamente attese. Poi, in un momento in cui i discorsi degli uomini sulle loro ricchezze e le chiacchiere delle donne si furono inspiegabilmente placati, dal cancello del trifoglio arrivarono Talento Coraggioso e Virtù Splendente. Entrambi indossavano vesti di damasco cremisi foderate d'ermellino. Quella di lui adorna soltanto di un bordo dorato, quella di lei ricamata con un fine arazzo. Lui si affrettò immediatamente in soccorso del fratello, unendosi agli uomini. Lei si mise accanto alla matriarca, prendendo delicatamente a braccetto la vecchia donna. La matriarca batté le mani. Subito le donne si schierarono dietro di lei. Come la coda capricciosa di un drago, la processione serpeggiò attraverso il cancello del trifoglio e lungo i sentieri del giardino fino alla cucina principale. Là la matriarca addolcì con miele le labbra del ritratto del dio della cucina e lo mandò al cielo in fiamme per propiziarsi un resoconto di fine d'anno favorevole. Quando il vecchio dio si fu dissolto, appese al suo posto un nuovo ritratto e le donne accesero a turno l'incenso in un turibolo con tripode di bronzo e fecero offerte di ravioli, confetti e riso. Mentre Luna di Primavera sollevava la ciotola di riso con entrambe le mani per onorare il Dio, i suoi pensieri vagarono improvvisamente lontano, verso Pechino e la casa dei Wu. Aveva passato soltanto 2 capodanni con Felice Promessa e questo era il decimo senza di lui. «Oh, marito mio!» gridò silenziosamente. «Devi sapere che ho sempre servito rispettosamente tua madre, finché me l'ha permesso». Un soffio d'incenso la riportò alla realtà. Le altre aspettavano. Non è il momento, si disse. I miei debiti sono stati pagati. Posò la ciotola sul tavolo e riprese di nuovo posto accanto a Giada Lucente. Dopo che la sposa più recente ebbe compiuto il rito, le donne tornarono al giardino del cipresso e insieme con gli uomini passeggiarono tranquillamente, senza nessun ordine apparente, da un cortile all'altro, animandoli di allegria e di rumore. A ogni cancello il patriarca incollava pergamene rosse su cui gli uomini del clan avevano tracciato versi e strofe nella loro migliore calligrafia. per propiziarsi prosperità, armonia, cultura, pietà e pace. Di tanto in tanto, mentre scambiava auguri con gli anziani e rispondeva ai quesiti di Giada Lucente, Luna di Primavera si sentiva osservata da qualcuno e istintivamente abbassava gli occhi. Non era lo sguardo critico di una vecchia, né quello curioso di un bambino. Lo sguardo era gentile, tenero. Senza alzare gli occhi, capì. Ho un aspetto gradevole, zio anziano. Infine arrivarono al grande cortile e alla sala degli antenati. Mentre gli uomini stavano a guardare, le donne tolsero dall'altare il vecchio broccato e vi distesero sopra quello nuovo. Tutte vi avevano lavorato per mesi, ricamando in oro sulle sette cremisi gli otto immortali e i loro emblemi. Sopra vi collocarono ciotole di verdura, pesce, carne, dolci, riso e frutta per il piacere dei defunti. Quando tutto fu pronto, calò il silenzio, spezzato quasi immediatamente dal suono di una campana di bronzo. Tre volte il vecchio giardiniere fece squillare l'antico tesoro, un dono di un collega letterato al loro amato antenato. Lentamente il patriarca si inginocchiò davanti alle tavolette ancestrali. Tre volte fece cutù, poi, rimanendo in piedi con atteggiamento riverente davanti all'altare, riferì a voce alta le buone notizie del clan. Oh, illustri antenati, nella prima luna dell'anno del cane, la casa dei Chang è stata benedetta da indescrivibile felicità, poiché una persona che ancora vive nel nostro giardino ha celebrato il suo 95° compleanno. Nella seconda, quando il resoconto del patriarca fu terminato, egli sedette sul divano di palissandro accanto all'altare e a uno, sotto gli occhi delle donne, i membri maschi del clan si inginocchiarono e fecero kutu secondo il rango occupato nella gerarchia familiare. La cerimonia era già in corso da tempo quando Luna di Primavera si rese conto che Giada Lucente ripeteva a bassa voce il nome esatto di ciascuno di coloro che si inginocchiavano davanti all'altare. Il prozio materno numero 3, lo zio materno numero 4, il cugino materno numero 1. Non sapeva che sua figlia tenesse così tanto all'au chià di sua madre. E così la sua bambina era affezionata alla famiglia. Forse, si disse, e il pensiero era quasi una preghiera, forse nel nuovo anno Giada Lucente troverà qui il suo giusto posto. Infine il ragazzo più giovane fece il suo inchino e ritornò al suo posto. Subito, Talento Coraggioso si alzò in piedi. Avanti con i fuochi d'artificio! Gridò e si avviò verso la porta. Avanti con i fuochi d'artificio! Fece eco la compagnia, mentre tutti si affrettavano a uscire per assistere allo spettacolo sfavillante. Un razzo schizzò verso la luna e a metà strada esplose, formando un pesco in fiore. Poi, bang, bang, bang! Un vaso di loto, un vaso di crisantemi, un cesto di fiori di prugno. Un giardino di fiori per ogni stagione fu seguito da crepitanti palle di cannone che sfrecciarono nella notte finché esplosero in scintille che disegnarono uno dopo l'altro gli otto immortali in colori diversi. Lo spettacolo terminò quando apparve in cielo il vecchio dio della longevità che guidava le stelle davanti a sé col suo bastone. Madre! Era Giada Lucente, la voce limpida nel silenzio che seguì all'ultima esplosione prima che l'applauso potesse cominciare. Madre, non ho mai visto nulla di tanto meraviglioso, sono così felice di essere qui. E così, quando risuonò l'applauso, sembrò che fosse rivolto anche a Giada Lucente, come se anche lei fosse davvero una Chang. Mentre rientravano nella sala degli antenati, che le serve avevano trasformato in una sala da banchetto, mentre il clan assisteva allo spettacolo pirotecnico, Luna di Primavera si chinò per sussurrare alla bambina: «Questa sera puoi sederti dove vuoi, figlia mia. Ogni anno, durante questa sera, le distinzioni vengono messe da parte e tutti sono uguali. Ma non metterti nell'ultimo posto vuoto di ogni tavolo. È riservato ai nostri antenati». Lasciò Giada Lucente perplessa a scrutare i tavoli e andò a sedere accanto a Ciccia. Si stavano scambiando gli auguri quando la vecchia serva si interruppe nel mezzo di un terzo. Felice anno nuovo! Guarda che bambina sfrontata! Sussurrò digrignando i denti. Giada Lucente era andata a sedersi vicino a un ragazzo, 20 d'agosto. Il silenzio si propagò da un tavolo all'altro e il clan al completo osservava esterrefatto la bambina Wu e l'orfano. La gaia atmosfera di alcuni minuti prima era scomparsa, come se non fosse mai esistita. Vedi, fratello, stava dicendo Giada Lucente, ho vinto. Ora sono seduta accanto a te, proprio come avevo detto. La sua risata risuonò sgradevolmente nella sala come i pungs di un giocatore di Mahjong non desiderato. Tutti guardavano verso l'una di primavera, esigendo silenziosamente che la madre adempisse al suo compito. Incapace di muoversi, l'una di primavera chinò il capo. Voleva spiegare che la bambina non sapeva. Lei le aveva detto di mettersi dove voleva, ma non aveva immaginato che si sedesse vicino a un ragazzo. Non aveva immaginato. Sentì il fruscio di un abito di seta e alzò gli occhi. Talento coraggioso si avvicinò a Giada Lucente e si sedette accanto a lei. La stanza ronzava di chiacchiere, gli occhi si spostavano dal ragazzo e dalla bambina all'una di primavera e poi al patriarca. Oh, zio anziano, pensò l'una di primavera, zio anziano, non dovete usare la legna per spegnere il fuoco. Squillante come le note di un pipa, si sentì un tintinnio di braccialetti d'oro. In un attimo, Virtù Splendente aveva preso posto sull'altra sedia, a fianco di 20 d'agosto. Allora i vicini ripresero a scambiarsi i saluti e quell'aria di festa ritornò. Buon anno, nipote! Colta di sorpresa si voltò per vedere Talento Nobile che, seduto accanto a lei, levava in alto la coppa di vino. Buon anno! Ripeté. Egli sa, pensò, cosa significhi sentirsi esclusi. E di nuovo si ritrovò a Pechino il giorno in cui il soldato era venuto a far loro visita nella casa del letterato Yen. Le tazzine da tè erano azzurre. Rapidamente allontanò il ricordo. Non ora, questa sera doveva essere animata dai pensieri più felici. Buon anno, zio, rispose lei e sollevando la sua coppa verso quella di lui propose: Fino all'ultima goccia? Fino all'ultima goccia. A ogni tavolo i presenti brindavano l'un con l'altro fino all'ultima goccia e i suoni di auguri rauchi rimbombavano per tutta la sala. Lentamente l'una di primavera scrutò la sala, soffermandosi su ciascun membro della casa dei Chang. Nessuno si assomigliava veramente. Molti erano diversi, come soltanto i fratelli possono essere. Fra alcuni vi era una distanza di generazioni. Eppure, fra loro esisteva un'affinità che li legava irrevocabilmente, cosicché qualsiasi sentiero avessero imboccato e per quanto si fossero allontanati, ciascuno sarebbe sempre vissuto all'ombra dei suoi antenati. Udendo, a ogni anno nuovo, l'eco di giovani risate e di campane di bronzo. Il suo sguardo cadde infine sulla matriarca, che sedeva a un tavolino d'angolo. La vecchia vide la nipote e la salutò con una mano, concedendole uno dei suoi rari sorrisi a gengive scoperte. 3 ore dopo, Talento Coraggioso si alzò per segnalare la fine del banchetto. Tutti lo imitarono. In tutte le ciotole rimanevano alcuni grani di riso, simbolo della speranza che il clan godesse di abbondanza durante l'anno nuovo. Seguendo il patriarca, uomini e donne procedettero fino all'enorme Mei Lu che ardeva nel grande cortile fuori della sala. Là, ciascuno, secondo il suo rango, gli adulti riempirono i loro scaldini di nuovi carboni accesi e poi coi bambini sfilarono per tutta la dimora, depositando qualche tizzone nei bracieri di tutti e 30 i cortili, finché tutti coloro che si trovavano entro le mura del giardino furono riscaldati dal tesoro degli antenati. Infine, quando questo rituale fu ultimato, i membri del clan tornarono alla sala degli antenati per godersi giochi, storie e rappresentazioni. Era presente ogni membro, persino il bambino più piccolo, perché in questa notte speciale nessuno osava dormire, nel timore di un sogno nefasto e quindi di cattivi auspici per il futuro. Soltanto a mezzanotte l'allegria si interruppe un attimo quando il patriarca guidò i membri maschi del clan al cancello principale per compiere il rito di girare la chiave, per rinchiudere all'interno della casa felicità e ricchezza. 16. i cospiratori. A decine di migliaia pronunciarono il giuramento rivoluzionario. Giuro al cielo che dedicherò tutto me stesso alla missione di rovesciare la dinastia Manciù, instaurare la Repubblica e risolvere la questione della terra sulla base di una equa ridistribuzione. Mi impegno solennemente a restare fedele a tali principi. Se li tradirò, accetterò la più severa punizione. Per tutto l'impero, gli uomini chiedevano: "Cosa sei tu?" e si sentivano rispondere: "Sono cinese." "Qual è il problema?" e si sentivano rispondere: "È il problema cinese." "Qual è la questione?" e si sentivano rispondere: "È la questione universale." Storia cinese. Era la prima notte d'estate e nell'aria stranamente umida per quella stagione il gracchiare delle rane risuonava come l'ansito di un moribondo. Virtù Splendente aveva avvicinato la sedia alla finestra e lavorava alla luce della sera cucendo una foglia di salice su un panciotto per il figlio maggiore. Talento Coraggioso e Luna di Primavera sedevano in silenzio al tavolino da tè, un libro aperto fra di loro. Tutti e tre erano silenziosi, come in un tableau, osservando Ciccia raccogliere le tazzine che avevano spinto da parte. Normalmente la vecchia non serviva il patriarca. Era stata costretta a farlo perché le altre erano scandalizzate per gli incontri quotidiani di Talento Coraggioso, sua moglie e sua nipote. Niente e nessuno poteva naturalmente impedire che si facessero pettegolezzi. Ma come la virtuosa vedova del padre del venerabile non fu vista mai più alla presenza di un altro uomo dopo la sua morte. Ma come la virtuosa vedova dello zio del venerabile non sfiorò mai più un oggetto che fosse stato toccato da un altro uomo? Dove siamo arrivati? Pubblicamente il clan si vantava della cultura di Luna di Primavera. I Sung non hanno forse mandato anche le figlie, oltre ai figli, a studiare in Giappone? Questo è il secolo nuovo. La casa dei Chang non deve rimanere indietro. Privatamente si sentivano manovrati dal patriarca. Era vero che ora che il governo e i missionari aprivano ovunque nuove scuole, gli insegnanti moderni qualificati, poco dopo essere stati assunti dalla scuola del clan, se ne andavano per posti migliori. Perciò, quando il patriarca suggerì che Luna di Primavera si assumesse l'incarico, non avevano obiettato. Ma non si sarebbero mai sognati di acconsentire anche a lezioni private in inglese. E se la presenza della moglie alle lezioni metteva a tacere i più maligni, non impediva loro di risentirsi per l'indecorosa intimità fra il patriarca e la vedova. Quando Ciccia se ne andò, Luna di Primavera si schiarì la gola e riprese a leggere ad alta voce. Il libro era Oliver Twist, e ogni qualvolta veniva fatto il nome del protagonista, esitava. Era difficile pronunciare correttamente il nome Oliver. Talento Coraggioso non l'ascoltò a lungo, benché di tanto in tanto annuisse fingendo di seguirla. Per tutta la settimana aveva svolto il suo ruolo come se tutto funzionasse bene, mentre invece tutto era in gioco. Una volta, quando era molto giovane, si era vantato di poter disegnare contemporaneamente un quadrato con la mano sinistra e un cerchio con la destra. Poi, di fronte ai suoi cugini, ci si era provato più volte, ma senza riuscirvi. E infine era scappato via più veloce che poteva, inseguito dalle loro risate, ed era inciampato, battendo la testa. Una settimana fa quello stesso dolore era tornato, quadrati e cerchi, cerchi e quadrati. Guardandosi le mani vide che tremavano. Silenziosamente maledì suo fratello. "Che cosa c'è, zio?" chiese Luna di Primavera in cinese. Lui sussultò, i loro occhi si incontrarono. Forse se non glielo avesse chiesto, non gli sarebbe mai passato per la mente di dirglielo, di parlarne a qualcuno. Ora, irrazionalmente, decise di rivelare il suo segreto. "Che cosa c'è?" chiese lei di nuovo. Lui scosse la testa, lanciando un'occhiata a Virtù Splendente. "No, niente, stavo ascoltando le rane, ecco tutto. Dammi il libro, ne leggerò un po'." Lei parve perplessa, ma ubbidì. "Nipote," disse in inglese. E di nuovo i loro occhi si incontrarono. "Ho qualcosa da dirti, fingerò di leggere, ma le mie parole non saranno quelle di Dickens." Si interruppe, ma lei non mostrò nessuna sorpresa e si limitò ad annuire come se già avesse fatto questo gioco. "Bene, allora, parlerò in inglese, mia moglie non deve sospettare e allarmarsi, capisci?" Di nuovo lei annuì. Insieme si chinarono sul libro e indicando con un dito le righe come per mostrare le parole, lui cominciò. Mio fratello da diversi anni ha giurato fedeltà a un gruppo di rivoluzionari. Si fermò, aspettandosi qualsiasi altra reazione all'infuori di quella che lei effettivamente ebbe. Parlò come se discutesse di un problema di grammatica, niente di più. Lo so, l'ho sospettato fino dall'epoca dei boxer. È stato lui ad avvertire la famiglia di mio marito. Così, perlomeno allora, il giovane fratello aveva assolto i suoi obblighi. Talento coraggioso, annuì e tornò al testo. Alcune settimane fa un carico di fucili da lui acquistato si è rivelato difettoso e ora si sospetta di lui. Molti hanno diffidato di lui fin dall'inizio perché non è cantonese, ora esigono che dia prova della sua fedeltà portando a termine una missione speciale. Alzò gli occhi. Luna di primavera fissava il testo. Proseguì. Dopo le prime battute scoprì che non aveva difficoltà a controllare la sua voce e recitare la sua parte, e riga dopo riga, pagina dopo pagina, le raccontò la storia di Talento Nobile. Suo fratello aveva accettato di assassinare un certo Manciù, un consigliere imperiale per i trasporti che aveva rubato a piene mani dal tesoro ammucchiato, una fortuna in bustarelle. Un uomo spietato, che aveva anche provocato la morte di molti innocenti. Una volta, durante una pausa, sentì lo sguardo di virtù splendente su di sé e alzò gli occhi, costringendosi a sorridere. «La storia è molto triste?» chiese lei. Fu Luna di primavera a rispondere. «Sì, zia. Forse allora la racconterai alle altre signore quando avrai finito.» Luna di primavera lo promise. Lui voltò pagina e proseguì. Mio fratello mi ha confidato tutto ciò quando è venuto qui la scorsa settimana, persino il metodo che si propone di usare. Una bomba è più sicura, ha detto. Attaccando allo Yamen siamo sicuri che tutti capiranno. Ho cercato di farlo desistere, ma lui se n'è andato e non sono più riuscito a trovarlo. Lei mise la mano sulla pagina e la voltò indietro come se chiedesse qualche chiarimento sul testo. Zio, dovete fermarlo. Se sarà catturato, tutti coloro che dividono il suo sangue morranno. Per un attimo ci fu silenzio. Questa volta sua moglie non intervenne nervosamente con qualche osservazione. L'ho supplicato, ma non ha voluto darmi retta. Ha detto che non ha mai coinvolto il clan e mai lo farà. Il pazzo! Ora manca poco tempo. Il funzionario arriva mercoledì prossimo per soggiornare al convento della ricerca pacata. Giovedì parteciperà ad alcune riunioni al palazzo del governo. Non posso nemmeno fare delle indagini per non suscitare sospetti. Dite al funzionario di non venire, indicò una riga nel mezzo della pagina. Con quale pretesto? Neppure se lui, come patriarca della casa del Chang, si fosse unito al gruppo dei Manciù. Vi sarebbe stata una qualche garanzia che Talento Nobile lo riconoscesse in tempo da sospendere l'aggressione? Non c'era alcun modo per proteggere il Manciù senza rivelare la congiura, alcun modo per salvare il fratello senza mettere a nudo il tradimento, a meno che il funzionario non morisse nel sonno. Ma non era vecchio e godeva di una eccellente salute. Non c'era alcun modo per salvare il clan. Non c'è via di uscita, disse il patriarca ad alta voce, a meno che quel farabutto non muoia nel sonno. Mise di leggere e alzò gli occhi, sentendosi inetto e sconfitto. Oh, non avrei dovuto dirtelo, nipote. Non ha senso e non so che cosa mi abbia indotto a. Marito mio, desideri dell'altro tè? Sussultò. No, no, disse a voce troppo alta e si riprese rapidamente. Non ho bisogno di nulla, moglie mia, ma è sceso il buio, accenderai la lampada? Luna di primavera non parlò e quando Virtù Splendente fu tornata al suo ricamo, lui voltò pagina e cominciò a leggere veramente. Aveva letto un capitolo senza mai interrompersi e senza capirne niente. Quando Luna di primavera improvvisamente mise una mano sul libro, aspettate, zio, prima avete detto qualcosa di interessante. Non poteva immaginare cosa fosse. Lei voltò una pagina e poi l'altra. Avete parlato della possibilità che muoia nel sonno? Quella è la nostra soluzione. Logica, ma impossibile da attuare. Lasciatemi pensare, disse Luna di primavera. Continuate a leggere. Aveva letto diverse altre pagine meccanicamente, come prima, quando improvvisamente Dickens parlò a lui e a suo fratello. Indegno figlio, codardo, bugiardo, tu che tieni conciliaboli con ladri e assassini nelle stanze buie la notte, tu che con le tue congiure e i tuoi inganni hai inflitto una morte violenta a uno e... Esitò, poi proseguì. Umiliazioni e amarezza al cuore di tuo padre. Zio anziano. L'una di primavera attirò la sua attenzione. Lui guardò verso Virtù Splendente. Sembrava non avesse notato niente. Zio anziano? Ripeté l'una di primavera. Non avete forse detto che il funzionario è stato accusato di malversazioni? Sì, tutti sanno che se non fosse per i suoi legami con la corte sarebbe stato punito anni fa. Allora, zio, credo di sapere qual è la soluzione. Possiamo mandargli un segno della clemenza imperiale, una corda di seta. Una corda di seta, lentamente annuì, poteva funzionare, certo. Doveva succedere al convento, prima che il Manciù raggiungesse Xuchao. E poiché l'una di primavera vi si recava periodicamente, non era improbabile che al momento giusto. Girò le pagine fino a tornare a un capitolo più allegro e spinse il libro verso di lei. Ora, leggi tu, nipote. La sua mente era al lavoro, valutando una per una tutte le probabilità, soffermandosi sui particolari, elaborando ogni aspetto finché si adattasse a quello successivo, così che tutto fosse congegnato in modo da condurre all'evento desiderato. Poi rifece il processo all'inverso, ripassando ogni frase come in una partita di scacchi, una partita in cui al suo avversario non doveva mai essere consentito di fare una mossa imprevista. Di tanto in tanto l'una di primavera alzava gli occhi dal libro, una volta accese il lucignolo nella lampada sul tavolo. 17. La corda di seta. Una volta fu costruito un convento buddista. I templi maestosi, frappini superbi, soltanto a un giorno di viaggio da un'antica città. Per secoli il santuario prosperò. Poi i tempi cattivi e l'accumularsi dei debiti minacciarono di chiudere i suoi cancelli chiodati e di rigettare le sue donne nel mondo. Ma la madre superiore era stata la vedova disprezzata di una grande casa e perdere la sua dimora una seconda volta era per lei impensabile. Essendo una donna di grandi risorse, prese delle misure drastiche, anche se non inaudite. Le monache più giovani e graziose non si sarebbero più rasate il capo. Fece indossare loro appositi abiti di seta e insegnò loro l'arte di imbellettarsi. Quella di conversare, di sollecitare e restituire favori e quella del piacere sessuale. Queste monache così particolari venivano assegnate agli ospiti di una notte e ai molti colti clienti che facevano regolari contributi al tesoro del convento. E mentre gran parte delle signore più altolocate continuavano a visitare il luogo di ritiro per pregare, alcune per una certa somma lo trovavano adatto per questioni più mondane. Così gli affari dei mortali venivano condotti insieme con quelli degli dèi, senza alcun conflitto di interesse o violazione della proprietà, e la casa dei senza casa fu preservata. Racconto cinese. Faceva già caldo quando la portantina di luna di primavera lasciò la casa dei Chang, svoltando per la strada della pagoda verso la porta nord-occidentale. Prima dell'alba era caduta una pioggerellina, così che nella luce del mattino Xuchao scintillava, una città di giada. Lungo i canali, pescatori con mantelline di paglia marrone scivolavano attraverso le brume come fantasmi, talvolta invisibili, talvolta visibili. I portatori procedettero con andatura ritmata sul ponte a falce di luna, sul quale gli anziani esponevano al sole gli uccelli canterini. Poi girarono lungo il canale principale dove stavano all'ancora le barche dei fiori. E il cuore di luna di primavera batteva più forte dello struscio dei loro sandali sull'acciottolato. Improvvisamente la portantina si fermò con un sobbalzo. Lei si aggrappò ai bordi, contenta di non essere scivolata a terra. Affacciatasi, chiese al capo portatore cosa fosse successo. C'è un incendio, giovane padrona, non possiamo passare. Ne sei sicuro? Sì, dobbiamo tornare indietro. No, deve esserci un'altra strada. Oh, ma è terribile, giovane padrona, torniamo indietro, l'altra strada non è certo raccomandabile. Questo non ha alcuna importanza. Il portatore si strinse nelle spalle e tornò al suo lavoro. Svoltarono a sinistra giù per una stretta strada laterale su cui si affacciavano botteghe della seta. Poi non ricordò più quando avesse cominciato a udire rumore. Dapprima fu sommesso come un sibilo di locuste, ma man mano che la portantina procedeva, saliva di intensità fino ad assomigliare a un gemito di 100 vedove e a un ruggito di draghi. Improvvisamente si sentì un fetore di rifiuti e di paura, più potente ancora di quel che aveva captato il giorno in cui era tornata a Pechino dalle colline. Scostò la tenda. La portantina si era inoltrata in un ampio spiazzo che lei non aveva mai visto prima. Era il luogo delle punizioni ufficiali, dove i criminali venivano frustati, messi alla gogna, marchiati, torturati o decapitati, secondo l'antica tradizione e la giustizia imperiale. Dai pali, lungo il limitare dello spiazzo, teste macchiate di sangue coperte di mosche montavano la guardia. Un giovane ladro stava seduto nella polvere, supplicando la folla e gli dèi di liberarlo dalle mosche che ricoprivano il suo volto gonfio e sudato. Le sue braccia erano inservibili, non poteva sollevarle dalla gogna di 3 piedi quadrati che gli posava sul collo sottile. Intorno a lui giocavano 4 o 5 bambini che fingevano di recarsi furtivamente in suo aiuto per poi scappare via urlando allegramente. Nelle vicinanze, un mercante in abiti costosi stava inginocchiato accanto alla sua confessione di furto, dipinta a grandi caratteri vistosi e collocata in modo che tutti potessero vederla. E il suono di un gong accompagnava ogni colpo di frusta. Al centro dello spiazzo, la portantina si fermò, la strada bloccata da una folla di culi a torso nudo. 3 uomini, vestiti di stracci, stavano seduti per terra scherzando mentre sceglievano verdure e maiale dai piatti posti davanti a loro, facendo schioccare le labbra con rumorosa soddisfazione. In piedi lì vicino il boia col suo cappuccio nero. Aspettava pazientemente che finissero di mangiare. Fate strada, onorati cittadini, fate strada! La portantina ondeggiò in mezzo agli spettatori per fermarsi di nuovo accanto a un ladro di tombe. La testa dell'uomo era chiusa fuori di una gabbia alta, mentre il suo corpo vi stava sospeso dentro e poggiava soltanto con le dita dei piedi su un monticello di assi. Mentre l'una di primavera osservava, la guardia rimosse un sasso, poi l'altro. Al suo posto un altro uomo che forse amasse meno la vita avrebbe cercato rapidamente la morte con un solo calcio al mucchietto. Gli occhi del disgraziato spalancati incontrarono quelli di lei prima che la portantina proseguisse.